Savonese delle Indie, via Chiodo 6R, località Savona. Numero 17. E come si chiama questo brano? Fantasia. E il nome dell'artista? Entropia Sonora. Ah, ripetimi, se non sono dimenticato tutto. Entropia Sonora. Artista. Thank you. campagna. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua Dino, musica Dino, prende vita. Accendo la radio su Apple Web. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su F2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Numero 12. Federico Lomanzi.